Il fanciullino di Giovanni Pascoli. È dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi, ma lacrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro e insieme sempre temono, sperano, godono, piangono. Si sente un palpito solo, uno strillare ed un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo ed egli resta piccolo. Noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare ed egli vi tiene fissa la sua antica, serena maraviglia. Noi ingrossiamo ed arrugginiamo la voce ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello, il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile, forse così come nella più matura, perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita. Meno badiamo a quell'angolo d'anima donde esso risuona. Ed anche egli, l'invisibile fanciullo, si perita vicino al giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, che più dissimile a sé vede quello che questi. Il giovane, in vero, di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo, che ne sdegna la conversazione come chi si vergogni di un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato ama parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave. E l'armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora. Di Giovanni Pascoli, Il fanciullino, dalla raccolta Pensieri e discorsi, pubblicata nel 1914, pubblico dominio. Voce narrante di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International, BY NC ND.